Buonasera cari amici, oggi vi propongo i bei versi di un giovane poeta che vive a Milano e che risponde al nome di Davide Carella. Bene, innanzitutto ascoltiamolo autopresentarsi. Salve a tutti, mi chiamo Davide Carella, ho 33 anni e sono nato e cresciuto a Milano, dove vivo tuttora. Mi sono diplomato in elettrotecnica nel 2004 all'ITIS Giorgi. Sempre nello stesso anno ho trovato impiego presso l'AMSA, l'azienda milanese dei servizi ambientali, di Milano, nella quale attualmente lavoro. Accennando brevemente i miei hobby, posso dirvi che mi piace pescare, mi piace andare in moto, adoro visitare i castelli, fare puzzle e in quest'ultimo periodo sto apprezzando molto anche la fotografia. Ogni volta che mi è possibile, poi mi piace assistere alle presentazioni dei libri e partecipare ai reading poetici. Questo perché personalmente penso che siano degli incontri sempre costruttivi, sia quando si trovano dei punti di incontro con gli altri poeti, scrittori, sia quando inevitabilmente ci si scontra con altri modi di esprimersi o di scrivere. Non posso affermare di aver sempre avuto la passione della poesia, ma è una cosa cresciuta nel tempo, perché beh, sin da adolescente ho sempre avuto la tendenza a trascrivere le mie emozioni, quindi riportare per iscritto le mie riflessioni, i miei pensieri, e poi crescendo e maturando ho iniziato ad apprezzare molto di più questa forma di espressione e anche a svilupparla. La mia prima esperienza di scrittura è stata nel 2015 la partecipazione insieme ad altri scrittori nel realizzare per la casa editrice Pagine l'antologia numero 181 di autori vari chiamata Riflessi. Poi nell'ottobre del 2017 ho avuto anche il piacere di partecipare a Book City Milano all'iniziativa Il Verso Giusto, un reading poetico sul tema della legalità e della giustizia al quale ho partecipato con una mia poesia intitolata Teatro d'ombre, nella quale paragono la mafia al moto di rotazione terrestre e lo spostamento delle ombre alle sue conseguenze. Sempre nel 2017, nei primi mesi dell'anno, con la collaborazione della casa editrice Edizioni Amande, ho avuto finalmente la gioia di veder prendere vita la mia prima silloge, Le luci dell'aurora. Parlando del mio libro, come primo aspetto vi vorrei brevemente raccontare come è nata la scelta del titolo. Una mattina, molto presto, mentre mi recavo al lavoro, stavo percorrendo una strada provinciale in mezzo alle campagne dell'Interland milanese e vedo in lontananza la città, di sagome buie più che altro, e poi questo meraviglioso gioco di colori in cielo. Così mi fermo, scatto una foto, che poi è la foto di copertina, e penso che anche la vita di ognuno di noi è un alternarsi quotidiano di luci ed ombre. Così, questa silloge è proprio una raccolta di poesie che parlano sia di gioia che di dolore. Entrando invece più nello specifico, nell'aspetto tecnico, visto che io desidero che le mie poesie siano di facile comprensione per persone di ogni grado culturale, nei miei scritti utilizzo termini di linguaggio comune e affronto anche argomenti di cui la maggior parte dei lettori può essere a conoscenza, come la gioia che deriva dal diventare genitore, il dolore purtroppo per la perdita di un familiare o l'emozione del primo bacio. esprimendo emozioni che si possono provare tutti i giorni, come la gratitudine, il rimorso, il rimpianto, questo giusto per citarvi alcuni esempi. Utilizzo spesso delle metafore, delle similitudini, in modo da dare allo scritto un duplice significato, sia descrittivo che morale. Quindi, in diverse poesie, ad una prima lettura si può visualizzare nella mente una scena, un momento, come se fosse un quadro o una sequenza di immagini. Ma poi, a una lettura più profonda, si possono anche carpire il paragone con la vita reale e i concetti e sentimenti che voglio trasmettere. Concludendo, posso definire che, dato che le poesie contenute all'interno di Le luci dell'aurora traggono ispirazione da momenti di vita vissuti da me in prima persona, mi piace definire questo mio primo libro come il mio biglietto da visita. Ed eccoci ora alle poesie di Davide Carella, spesso caratterizzate da una forte carica sociale, oltre che sentimentale. Vorrei condividere con voi alcune poesie contenute all'interno della mia silloge Le luci dell'aurora. Un insieme di poesie che, come suggerisce il titolo, parlano di emozioni sia di gioia che di dolore. Per iniziare vorrei leggervi proprio la poesia da cui è tratto il titolo della silloge. Aurora. D'oro i riflessi del mattutino crepuscolo al termine. Del sole ne annuncia il sorgere tra ombre e luci. Sul terrazzo qui il mio attendere, accarezzato dalla brezza che la notte ha accompagnato nel suo cammino. Dolce miscela i primi cinguettii e il fruscio delle foglie. In silenzio respiro il profumo dell'erba lucente per la rugiada del mattino. Svaniscono le ombre. Van dissolvendosi i pensieri di una notte insonne. Ecco l'aurora e col suo giungere l'affacciarsi dell'infuocato astro, un nuovo inizio. Ora vorrei leggervi invece Granelli di sabbia. Spesso i sogni, come si suol dire, li mettiamo nel cassetto, invece penso che vadano presi e inseguiti perché non bisogna mai smettere di sognare. Quindi, granelli di sabbia. Sprofondano nella clessidra minuscoli granelli di sabbia. Un tempo parte di qualcosa di eterno, senza tempo, ora rincorsi dalla fretta. Simile sorte attendono i sogni. Li raccolgo dalla spiaggia dei ricordi. Più li stringo, più sfuggono. I pochi che restano, i più preziosi, li getto nel mare di speranza che a lungo li ha abbracciati. Forse torneranno qui a riposare, o forse le onde, accarezzandoli, gli faranno superare l'orizzonte. Ora vorrei invece leggervi una poesia che è dedicata ad un batterista e musicista di Messina che purtroppo è venuto a mancare un paio di anni fa. Angelo Tripodo, un uomo dalle grandi capacità artistiche ma anche dalle grandi doti umane. Non solo musica. Piccole note trasportate dal vento, grande melodia per ogni momento. Tra cielo e terra ogni corpo si muove, creando vibrazioni, questo è il suono. Ma un uomo che ode e trasforma in emozioni, questo è un dono. Da un corpo all'altro, da chi crea a chi trasforma, musica unificante tra mente e cuore. Tanti i limiti, troppi i confini, ma tu, o musica che superi le barriere, questa è l'arte. Se tutto vibra, anche suona. Ti troverò in ogni cosa, piccola nota, perché tu ne fai parte. Ora invece una poesia dedicata alle persone che affrontano spesso delle situazioni difficili, che magari non possono esternare e lo fanno in solitudine, in silenzio, soffrendo. Però da queste situazioni bisogna sempre cercare di tirar fuori qualcosa di buono, perché ne può scaturire una bellezza interiore. E quindi, fiore di luna, attendi il mattino, racchiuso su te stesso, nelle lunghe riflessioni di una notte insonne. Lontano da ogni rumore, quando le tenebre sono ormai calate, quando tutto intorno a te dorme. Afflitto, trattieni un dolore che non puoi più contenere. Nessuno sente. Nessuno capisce, solo lei può sapere. Ti osserva dall'alto, paziente, attende il grande vento. L'ammiri, raccogli le tue forze e fiorisci in un momento. Notte di luna piena, quando nessuno vede, sboccia la tua bellezza. Di questa lunga attesa ne è valsa la pena. Ora invece vorrei leggervi una poesia che è nata come forma di protesta nei confronti della violenza verso i bambini negli asili, di cui purtroppo spesso si sente parlare. Il titolo di questa poesia è Cadono le maschere. Mura rosa, mura celesti, dove l'apparenza inganna, fuori i colori, dentro i gesti. Si chiudono le porte per tener fuori il male, ma se il male è già dentro, la paura le assale. Si blocca il respiro, creature indifese, ferite, dolori troppe, le offese. Laddove dovrebbe fluttuare l'amore, si odono pianti, echi d'orrore. Persone per bene che cambian le vesti, quel che ne resta, corpicini pesti. Cadono le maschere tra quelle mura, dove i mostri svelano la vera natura. Ora invece una poesia dedicata al momento giusto. Tante volte piangere è considerato un gesto di debolezza, invece spesso è proprio quello che occorre. Quindi tante volte piangere fa bene ed è uno sfogo, e per questo motivo è nata questa poesia. Il momento di piangere. Corri ora, prima che il temporale finisca. Prima che smetta di nascondere le tue orme, prima che qualcuno possa scoprire i tuoi passi, il tuo passato, il tuo percorso. Grida adesso, prima che i tuoni smettano di coprire le tue urla, prima che qualcuno senta il tuo dolore, la tua rabbia, il tuo rimorso. Mentre fai un altro passo, mentre lanci un altro grido, quando ancora la pioggia confonde le lacrime sul tuo viso. Il vento cesserà di scompigliare i tuoi pensieri, il buio sulla tua testa schiarirà di nuovo, un pallido sole ti mostrerà nuove speranze. Presto, ma ora, questo è il momento di piangere. Altre volte ci sentiamo indegni, non ci sentiamo a posto, ci sentiamo sbagliati, vorremmo solo scomparire. E da questi sentimenti la prossima poesia. Dentro una nube, solitaria, gonfia dei miei sbagli, con solenne lentezza mi allontano. Appaio come nube bianca, morbida bellezza che vola via, piano. Chiusi in me, tuttavia, nascosti all'altrui vista i miei errori. Li porto dove potranno morire. Parti di vita da dimenticare, persone, luoghi, i momenti peggiori, lì potranno svanire. Ora, allungata nell'azzurra distesa, reduce di gioia e dolore, di carezza e di offesa, come un vapore, scompaio. Questa invece è una poesia dedicata all'amore a distanza, un amore di cui spesso si parla e che non bisogna sottovalutare. Il fulmine. Nella notte irrompe, il cielo in due spezza, scoppiando prorompe, bianca traccia di bellezza. Pochi istanti il suo essere sode, brucia nell'aria un sentimento che esplode. Fa tremare al fragoroso frastuono il cuor di colei che conta i secondi tra luce e suono. Illumina ogni cosa nei dintorni, poi dietro sé l'attesa, speranza sospesa che ritorni. E per finire, l'ultima poesia che vi leggo si intitola Tu nebbia ed è dedicata a un amore da dimenticare. Troppo a lungo ho inseguito il tuo piede, ora solo porgo l'orecchio a ciò che l'occhio non vede. In frantumi quegli intensi momenti, e nella tua essenza che tutto avvolge, persi i frammenti di un perduto amore che ancor sconvolge. Silenzio, solo questo mi attorna. Svanite dei monti le cime, ambiti sogni, speranze che con l'eterno avevano confine. Svaniti dei fiori i colori, rubate quelle gemme di allegria, lasciando spazio a memorie di dolori. Silenzio, solo questo mi attorno. Troppo a lungo ho cercato la tua mano, ora solo proseguo a tastoni, cercando un'uscita invano. Impossibile riunire pezzi di un qualcosa che non so definire, e fermo nel silenzio attendo. Anche tu, nebbia, dovrai pur svanire. E ora vorrei salutare tutti gli ascoltatori con la mia frase di battaglia, riportata anche nel libro, che nulla è più vero e reale delle emozioni e la poesia, e ciò in cui esse si concretizzano. Grazie a tutti. Saluto a tutti voi, cari amici, e a risentirci alla prossima puntata di The Big World of Poetry and Fiction.